se di me contarono i denti, di voi apprezzarono le cosce, e come fecero con me, vi vendettero i migliori offerenti. Con catene e fucili m'hanno intrappolata, voi vanno intrappolate con menzogne. È il vostro fato se non vi svegliate alla lotta. Useranno il vostro corpo nudo per vendere la loro merce. Odio, Coca-Cola o stupro. Ecco la depravazione a cui vi ridurrebbero. Per me la morte, ma per voi peggio della morte. Perciò, quando parlate con me, attenzione. Non mi si rammenti la mia schiavitù, la conosco bene. Piuttosto, ditemi della vostra. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, so glad you could make it now. Oh, look at my. Ciao a tutte, eccoci alla terza puntata della quinta ora. Oggi abbiamo l'immenso piacere di ospitare con noi Federica Ruggero. È da poco uscito a marzo il suo libro Modificazioni genitali femminili. Federica è una sociologa romana, si è specializzata in discipline antropologiche, gender studies e studi postcoloniali. Ha pubblicato diversi articoli, saggi critici sull'MGF e collabora con la cooperativa sociale BeFree di cui è socia. E si occupa di progetti di contrasto alla violenza contro le donne, allo sfruttamento sessuale, all'omofobia, al sessismo e al razzismo. Ciao Federica. Ciao Federica. Siamo molto contente di averti qua e questa è un'occasione speciale, insomma, perché stiamo presentando il tuo libro Modificazioni genitali femminili. Partiamo un po' dal titolo, perché insomma modificazioni genitali femminili è una terminologia a cui noi non siamo abituate. E poi anche il sottotitolo è interessante, una questione postcoloniale, il nostro sguardo sulla nostra alterità. Sì, in realtà ho scelto di definirle modificazioni e non mutilazioni per diversi motivi. Intanto perché non tutte le pratiche che rientrano nelle cosiddette mutilazioni genitali femminili sono di fatto una vera e propria mutilazione. Per chi non lo sapesse, ovviamente rientrano in questa terminologia l'infibulazione e diverse altre pratiche che insistono sugli organi genitali femminili a diverso titolo. Però ci sono per esempio anche delle mutilazioni che di fatto non sono delle reali mutilazioni, ad esempio le donne dell'Uganda, della popolazione del Buganda, in realtà praticano l'ipertrofizzazione della clitoride attraverso lo sfregamento con delle erbe sin da quando sono bambine. E questa cosa esattamente è di fatto l'esatto contrario di una mutilazione, perché la clitoride non è mutilata, ma altresì ipertrofizzata. Malgrado questo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità continua a definirle delle mutilazioni, quindi già questo delinea un approccio connotato negativamente del nostro sguardo, dello sguardo occidentale, che è quello che più di qualunque altro mi interessava sviluppare in questo studio. Un'altra questione è che in realtà volevo prendere in considerazione anche il punto di vista emico, cioè delle attrici direttamente coinvolte, per cui la maggior parte delle donne che decidono di sottoporsi all'MGF di fatto non si considerano mutilate. Di fatto, quindi, considerando le mutilate, si manca di rispetto e si continua a vittimizzare delle donne che di fatto non si sentono affatto mutilate. Per quello il termine modificazione sembrava un po' più rispettoso del punto di vista delle attrici direttamente coinvolte. Ma infatti quello che è interessante da questo libro, diciamo, è che più che essere un libro sulle MGF è un libro sullo sguardo occidentale sull'MGF e non solo, diciamo, è come se, ne parlavamo prima, insomma, fosse un filo conduttore quello dell'MGF, per cui questo però ti dà la possibilità di parlare di tanti altri argomenti e di focalizzare l'attenzione sul fatto che quando parliamo di MGF in realtà è come se dimenticassimo le nostre di MGF, nostre dico di donne occidentali. Sì, infatti trovo che sia particolarmente indicativo che in Occidente si parli così tanto di modificazioni genitali femminili, per cui forse ci dovremmo interrogare piuttosto su cosa significano per noi. Infatti ho cercato di non entrare nel vespaio se fosse giusto o sbagliata come pratica, ma perché appunto non spetta a me ovviamente definirlo, in quanto se entrassi anch'io in questo trabocchetto in qualche modo riprodurrei l'atto di ventriloquismo, per cui sono sempre le donne occidentali a parlare per conto delle cosiddette donne subalterne, che se vogliamo diventano subalterne nuovamente nella misura in cui qualcun altro parla al loro posto. E quindi mi interessava appunto capire che cosa significassero per noi, quindi partendo dal presupposto che io da bianca, donna bianca femminista occidentale, non potevo esimermi dall'interrogarmi su cosa potessero voler dire per noi fondamentalmente, e ritengo che le MGF possano servirci come un fenomeno particolarmente emblematico per osservare una serie di approcci e di rappresentazioni che hanno fortemente a che vedere con l'immaginario che noi abbiamo sulle donne altre, di altre culture, in quanto se vogliamo è il luogo dove convergono tutte le narrazioni delle donne altre che di fatto lo sguardo occidentale produce. E appunto, quali sono, per esempio, quale può essere questo immaginario che noi abbiamo sulle donne che vengono da altre culture? Beh, di fatto l'approccio è sempre molto, molto paternalistico, per cui la prima cosa che si dice è che le donne che si sottopongono all'MGF di fatto non esercitano il loro libero arbitrio. Per questo motivo io ho deciso di escludere dalla mia indagine le pratiche che coinvolgono bambine, quindi non consenzienti, sebbene anche nella nostra cultura ci siano moltissime pratiche che di fatto non riconoscono il libero arbitrio e la possibilità di scelta e di autodeterminazione delle bambine. Però siccome secondo me è stato un paravento dietro cui nascondere di fatto il razzismo e il sessismo del nostro sguardo, che invece emerge in altri momenti di dibattito sull'MGF, ho deciso di espungere da questa analisi quel tipo di pratiche, prendendo in considerazione esclusivamente i casi di donne consenzienti. E a questo punto diciamo, i paradossi vengono al pettine, perché effettivamente forse non tutte ci siamo interrogate sul fatto che esistono delle modificazioni genitali anche in Occidente, praticate da donne occidentali, per esempio la chirurgia estetica, che di fatto sta prendendo sempre più piede e coinvolge anche le zone genitali, per cui esistono anche casi di ringiovanimento della clitoride o la ricostruzione dell'imene o lo sbiancamento dell'ano, il ringiovanimento delle piccole e delle grandi labbra, che dovrebbero raccontarci molto di quanto di simbolico ci sia in quel tipo di pratica. Però mentre le MGF sono stigmatizzate una volta come atto, se vogliamo, di superstizione o di o di non autodeterminazione, dall'altro sono criminalizzate in quanto dal 2006 in Italia esiste una legge considerata razzista anche da molti giuristi che colpisce queste pratiche considerandolo un mero reato senza considerare invece l'attenuante culturale che comunque dovrebbe essere presa in considerazione in questi casi. Cioè nel 2006, lo ricordiamo, è stata fatta proprio una legge apposta, cioè mentre le MGF prima si potevano, diciamo, criminalizzare tra virgolette rispetto a dei reati che già esistevano, per esempio come le lesioni personali, i legislatori hanno, diciamo, trovato la necessità di fare una legge apposta, cioè in cui c'è lo specifico reato di mutilazioni genitali femminili, e questo insomma è anche molto simbolico, nel senso che penso che tu lo dici nel tuo libro, cioè era dal 1930 che non veniva creato proprio un nuovo reato per un fenomeno specifico, e questo, diciamo, che per quanto riguarda la legge è manchevole anche, dici tu, rispetto poi al dopo, cioè che cosa succede se una donna vuole sottrarsi alle MGF in base a questa legge? Non riceve né asilo politico né una protezione sociale, quindi diciamo che questa parte è totalmente esclusa dal dibattito sulla legge, e questa parte dimostra appunto è la mancanza di questo specifico focus sulle donne che magari si vogliono sottrarre, dimostra tutta l'ideologia che c'è, no, intorno a questa legge. Sì, assolutamente, peraltro va ricordato che in Occidente si praticavano le MGF fino agli anni 40 del Novecento, perché venivano utilizzate per intervenire su, per esempio, sul lesbismo, sull'omosessualità femminile declinata in vari modi, o anche per curare l'isteria. E di fatto questo avveniva nelle cliniche inglesi, ad esempio, fino agli anni 40. È una cosa che invece noi abbiamo completamente rimosso. Per quanto riguarda invece la legge ad hoc che è stata fatta nel 2006, esisteva già dal codice penale, come diceva Francesca, una legge che puniva ovviamente reati contro la persona. Di fatto questa legge del 2006 introduce invece una legge razzista, perché colpisce esclusivamente una parte della popolazione, cioè quella migrante, per cui le persone che sono considerate rei di aver commesso appunto MGF, non a loro non viene dato nessun tipo di attenuante culturale, tant'è che nei processi molto spesso loro sono completamente ignare di aver commesso qualcosa al di fuori della legge, non considerando invece, se vogliamo, la buona fede. E dall'altra, appunto, le donne coinvolte non hanno nessun tipo di protezione, per cui se da una parte viene loro impedito di potersi avvalere di questa pratica, dall'altra non hanno nessun tipo di riconoscimento giuridico per poter in qualche modo rifuggerla nel momento in cui decidono di non sottoporvisi, e quindi in molti casi sono costrette o a farlo clandestinamente in condizioni magari anche estreme dal punto di vista igienico-sanitario, oppure di farlo nel loro paese d'origine. E quindi questa è stata considerata, insomma, da più voci una legge assolutamente razzista, fondamentalmente. E poi nel tuo libro fai anche riferimento a tutto un contesto, che è quello italiano, che è molto ostile alle persone immigrate, no? Quindi questo che significa? Significa che quando non trovi accoglienza nel tuo paese di destinazione, nel paese, diciamo, di destinazione, comunque lo spirito di sopravvivenza ti porta comunque, no, a usare come unico punto di riferimento, nel bene o nel male, qua non stiamo, ripeto, a giudicare l'MGF in sé, però questa mancanza di solidarietà, questa difficoltà perenne nel contesto italiano delle donne immigrate, porta a usare come unico punto di riferimento la loro comunità di appartenenza, no? Sì, è successa la stessa cosa anche per la questione del velo. Moltissime donne immigrate hanno deciso di indossare il velo una volta arrivate in Europa, nella fattispecie in Italia, proprio perché entrano in gioco dei processi identitari o anche di ribellione, cioè a quel punto un oggetto che poteva essere abbandonato nel proprio contesto d'origine diventa un oggetto non solo identitario ma anche una forma di ribellione nel momento in cui ti è vietato indossarlo, nel momento in cui la soggettività ti viene negata o la possibilità comunque di esistere in quanto in quanto insomma donna appartenente a una cultura diversa ti viene negata, per cui sei condannata appunto all'anonimato, all'invisibilità, diventa invece uno strumento di riappropriazione del proprio esistere. E per l'MGF può essere fatto un discorso abbastanza simile fondamentalmente. Facciamo un piccolo stacco musicale e ritorniamo qua. Toa cucu, toa cucu, stem, stem, stem, stem, toa cucu, toa cucu. Stem, toa cucu, toa cucu, stem, stem, stem, stem, toa cucu, toa cucu. Stem, toa cucu, toa cucu, stem, stem, stem, toa cucu, toa cucu. Stem, toa cucu, toa cucu, stem, stem, stem, toa cucu, toa cucu. Stem, toa cucu, toa cucu. Every time I heard that you want to leave me, every time I heard that you want to go, that I'm dreaming of you. All day I dream to you. La quinta ora, siamo con Federica Ruggero, da poco è uscito il suo libro Modificazioni genitali femminili. Vorrei, Federica, per chi si fosse sintonizzato solo ora, anche per ritornare un po' indietro, che ci spiegassi cosa sono le modificazioni genitali femminili. Allora, le modificazioni genitali femminili sono una pratica, come abbiamo detto anche prima, era abbastanza diffusa anche in Europa, adesso ha tolto, diciamo, la presenza dei migranti in Europa, viene ormai circoscritta per lo più ai paesi dell'Africa, del Sud America e dell'Asia. In realtà sono delle pratiche che insistono sul, diciamo, l'apparato genitale femminile per diverse motivazioni, ovviamente. Una tra tutte, che riguarda ovviamente anche noi, è l'idea che il corpo sia imperfetto e in quanto tale debba essere perfezionato. È una cosa che facciamo ovviamente anche noi, se pensiamo a tutte le modificazioni che facciamo sui nostri corpi, dalle più, forse delle più blande, quelle che a noi sembrano assolutamente normali, come potrebbero essere i buchi alle orecchie o i tatuaggi, fino a quelle più invasive, che sono appunto le scarnification ad esempio, oppure le attività di body sculpture, per cui appunto diciamo che ci sottoponiamo a ore e ore di palestra anche estrema, perché comunque consideriamo il nostro corpo imperfetto e quindi necessita perfezione. Le MGF possono rientrare in questa macro categoria, ovviamente con delle declinazioni diverse. Possono essere considerate un rito di passaggio, ad esempio, come ci sono anche nelle nostre culture. Possono anche essere un momento in cui diciamo si passa non solo dallo stadio della pubertà, l'adolescenza, ma che si stabilisce anche il passaggio dall'essere di diventare una vera e propria donna, per cui intervenire sulla clitoride significa intervenire su una parte del corpo che è considerata un po' più, se vogliamo, dalle forme più falliche, quindi significa in qualche modo dare una dimensione più completamente femminile a un organo che invece poteva contenere al suo interno sia elementi maschili che femminili. Come abbiamo detto prima, in realtà anche in Occidente venivano praticate normalmente, anche in ospedale, nelle cliniche fino agli anni 40, ormai è diventata una pratica che viene, se vogliamo, circoscritta solamente alla dimensione dell'alterità, per cui è come se questa cosa non ci riguardasse se non esclusivamente nel coinvolgimento di donne di altri paesi. In realtà sono moltissime le pratiche di MGF che facciamo, a cui sottoponiamo anche i nostri corpi. L'idea è che appunto il nostro corpo è sempre imperfetto appunto il dato, l'aspetto naturale debba essere in qualche modo perfezionato da dell'elemento culturale, e di conseguenza le MGF trovano una spiegazione all'interno di questa cornice. Cioè, quello che tu dici è che tutte abbiamo le nostre MGF, no? E quindi diciamo che perché dovremmo considerare maggiormente subalterne e schiacciate dalla cultura le donne di altri paesi, quando appunto diciamo parlare di MGF ci fa sentire a noi emancipate e libere, cosa che non siamo affatto, no? Quindi diciamo che tu lo ripeti spesso nel libro, il fatto che non stai difendendo le MGF in termini assoluti, no? Ma vuoi creare, vuoi mettere quella pulce nell'orecchio, per cui vuoi spostare un po' l'attenzione rispetto appunto a quello che è il nostro sguardo e la nostra finta emancipazione che ci permette di, diciamo che ci avalla nel giudicare altre donne. Quindi naturalmente le argomentazioni più a sostegno della lotta contro le MGF possono essere appunto quelle del coinvolgimento delle bambine e anche dell'invasività proprio, no? Dell'invasività dell'operazione, sì, della pratica. In molti casi può essere invalidante, questo è indubbio. Come però possono essere invalidanti anche i nostri interventi di chirurgia estetica. Però se lì anche andiamo a analizzare tutto il portato ideologico che c'è dietro, ci rendiamo conto che mentre per quanto riguarda la chirurgia estetica di fatto esistono campagne pubblicitarie ed anche tutta una letteratura che invece invoglia, incoraggia le donne a sottoporsi alla chirurgia estetica, proprio perché viviamo in una società in cui è vietato invecchiare e quindi in cui quel rito di passaggio proprio non lo vogliamo fare, fondamentalmente abbiamo tutt'altro approccio quando invece parliamo delle modificazioni genitali delle altre, all'interno di un discorso che invece è molto inferiorizzante, perché non è mai considerata una pratica in cui attraverso cui semmai stabilire rapporti di solidarietà tra donne, ma invece rientra in una cornice fortemente razzista e sessista e, se vogliamo, neocoloniale, per cui le donne bianche occidentali sono le sorelle maggiori che dovrebbero aiutare le donne di altri paesi, non a caso appunto paesi postcoloniali, ad essere libere e emancipate esattamente come lo siamo state noi. E di fatto è una dialettica nella quale le donne hanno un ruolo di primo piano, perché se diciamo fino a qualche decennio fa il fardello dell'uomo bianco era esclusivamente appannaggio degli uomini che da sempre hanno tolto agency alle donne, di fatto invece oggi vediamo un'importante partecipazione anche delle donne e purtroppo anche del femminismo occidentale in questo tipo di dinamica, per cui di fatto noi abbiamo bisogno di entrare in questa dialettica, perché ci permette di giocare un ruolo di egemonia laddove su altri territori viviamo ancora in una condizione di subalternità. Ti volevo fare un'altra domanda. Perché tu ad un certo punto parli, no, di cultura, cioè di una definizione che a te ti è più cara, no, di cultura, che magari, insomma, a cui noi non siamo abituate, cioè nel senso che è come se ci fosse una differenza tra la nostra definizione di cultura e quello che poi come cultura attribuiamo alla cultura degli altri, nel senso che la nostra cultura è, cioè che la cultura degli altri è molto più soffocante, molto più schiacciante rispetto a quello che invece definiamo come nostra cultura. Sì, in realtà uno delle grandi, diciamo, delle grandi argomentazioni, oltre a quello appunto della mancata libertà di scelta, è quella, perché faccio una regressione rispetto a prima, dicevo che infatti ho deciso di parlare solamente delle donne che decidono da adulte di sottoporsi all'MGF, proprio perché per espungere dal dibattito la questione della libera scelta. Di fatto, pur parlando di donne che decidono liberamente di sottoporsi all'MGF, una delle obiezioni più frequenti è che di fatto non sono mai veramente libere le donne che decidono di farlo. A quel punto però mi chiedo, quanto sono, non sono parimenti non libere le donne che decidono di sottoporsi alla chirurgia estetica per ringiovanirsi le piccole labbra o di farsi ricostruire l'imene? Non è comunque una scelta che ha molto a che vedere con i dover essere femminili che ci impone la nostra società e che comunque dal punto di vista simbolico mi sembra che abbia un portato enorme. Eppure di fatto, se noi riconosciamo assoluta libertà di scelta alle donne occidentali che decidono di sottoporsi ai casi di chirurgia estetica, di fatto questo tipo di agency non la riconosciamo invece alle donne degli altri paesi. Questo perché pensiamo di loro che sono sempre schiacciate nella dimensione culturale, per cui in realtà la libera scelta a loro non è mai consentita, e anche quando invece ci sono gli estremi per pensare che invece quella libertà di scelta la stiano di fatto agendo, siamo sempre disposte in realtà a sottrarre loro questo tipo di diritto, perché pensiamo che comunque la loro dimensione culturale sia talmente tanto schiacciante per cui non c'è possibilità invece di una scelta individuale realmente libera, cosa che invece riconosciamo a noi sempre come data in quanto appunto soggetto universale e normativizzante peraltro. Sì, tra l'altro tu fai nel tuo libro, fornisci anche una panoramica, no, di quella che è la nostra visione del fenomeno dell'MGF, riportando anche degli articoli che sono apparsi nella stampa nazionale. E, bene, facciamo un'altra piccola pausa e poi ritorniamo insieme a Federica. Torniamo con Federica Ruggero e con il suo libro Modificazioni genitali femminili, edito da Colibri. Federica, parlavo prima della rassegna stampa che tu richiami un po' per affrontare, anche per fornire quella che è la nostra visione del fenomeno dell'MGF, e c'è un dibattito scatenato, tu citi, da una proposta di rito alternativo da parte dei ginecologi Omar Abdul Kadir e Lucrezia Catania. Sì, che cos'è questo rito alternativo? Sì, praticamente, poiché una delle grandi argomentazioni contro l'MGF è il fatto, come diceva Francesca, che siano fisicamente molto invasive, e di fatto un medico somalo di Careggi a Firenze aveva proposto un rito alternativo che, di infibulazione, ma in realtà non era una vera e propria infibulazione, perché si trattava di una puntura sulla clitoride, che avrebbe ovviamente, se vogliamo, sottratto al fenomeno dell'MGF chi comunque si sarebbe sottoposto alla pratica integrale, e quindi non chi comunque non ci sarebbe mai voluto sottoporre. Malgrado questo, c'è stata una levata di scudi, soprattutto da parte di molti movimenti di ONG e anche di molti movimenti femministi, perché comunque era una pratica che manteneva l'aspetto simbolico, seppur di fatto non fosse invasiva. A questo punto mi sembrava particolarmente emblematico, infatti, raccogliere la rassegna stampa che ho riportato nel libro, perché invece effettivamente svela, come dire, il re nudo che sta dietro il nostro approccio al fenomeno, proprio perché, tolta la dimensione della non autodeterminazione, perché abbiamo detto che affrontiamo esclusivamente le donne che decidono da adulte di sottoporvisi, è tolta anche la questione dell'invasività della pratica, di fatto il dibattito rimane intonso esattamente come lo era prima, il che significa che probabilmente non sono questi i veri aspetti, i veri nodi da sciogliere sulla questione rispetto al nostro sguardo, ma sono in realtà dei paraventi dietro cui nascondere il nostro sguardo razzista e sessista. Per cui una provocazione tra le tante è che mi chiedevo, se una donna africana decidesse di andare a sottoporsi a una pratica di MGF in una chirurgia estetica occidentale, come potremmo considerare questo una pratica di MGF e quindi assolutamente da condannare e da vietare, oppure un intervento di chirurgia estetica che in questo caso invece è assolutamente incoraggiato e sostenuto dalla nostra società? Certo. Proprio questo ritorno, questo no, rifarsi sempre degli stereotipi, cioè questo, tu citi questo articolo della Gazzetta del Sud del 1 febbraio 2004 di Girolamo Cotroneo, lui scrive: tutti ormai sappiamo che presso alcune popolazioni extraeuropee viene ancora praticata quella barbara usanza che è l'infibulazione. Il problema non è o non è soltanto quello del dolore che quell'intervento provoca, ma del suo significato, diciamo culturale, delle ragioni, o meglio delle non ragioni, per cui viene praticato, che risalgono a oscure istanze originarie, tipiche di una società chiusa, di una cultura tribale, di un mondo primitivo, ancora preda di antiche superstizioni. Sì, di fatto una delle rappresentazioni più comuni che noi facciamo soprattutto dell'Africa, in quanto maggiore rappresentazione della nostra alterità rispetto all'Occidente, è di un continente, senza ovviamente del quale ci guardiamo bene da fare qualsiasi distinzione, come appunto una massa indistinta di pratiche tribali, barbare e superstiziose, tra le quali se ne dà anche la questione dell'MGF, che ovviamente appunto ci dice più del nostro sguardo di quanto poi ci dica invece delle reali dei vari modus vivendi invece di popolazioni africane, insomma di diverso insomma, di diversa provenienza. E ovviamente il fatto che la rassegna stampa è di fatto ricca di passaggi di questo tipo, perché fondamentalmente la rappresentazione che noi abbiamo delle donne che si sottopongono all'MGF, ma in generale delle donne del sud del mondo, se vogliamo chiamarlo così, di fatto ricalca esattamente questo tipo di dialettica, per cui sono sempre delle donne, quando non sono barbare incivili, sono delle donne che comunque devono essere, a cui deve essere insegnata l'emancipazione e la liberazione, o comunque sono donne rese vittima da pratiche tribali, che non, peraltro non meglio precisate, perché appunto ricordiamo che tanto il concetto di tribù quanto quello di etnia è un prodotto tutto occidentale, che non ha niente a che vedere con le realtà africane, e di fatto è in realtà una costruzione completamente interna alla nostra dialettica, ma abbiamo bisogno di questo tipo di dialettica per inferiorizzare l'altro, nella fattispecie l'altra, che nella logica di egemonia e subalternità è, come dire, il soggetto subalterno per definizione, in quanto donna, in quanto nera in questo caso, e in quanto appunto donna dei paesi del cosiddetto sud del mondo. Quindi da salvare in toto. Sì, sì, assolutamente da salvare. O da liberare, perché loro non sono assolutamente in grado di farlo da sole. E questo, diciamo, ci porta anche appunto a pensare, come dici tu appunto in una parte del libro, a quante sono invece le battaglie, le istanze per i nostri diritti a cui anche le donne provenienti da altre parti potrebbero contribuire, no? Cioè, quindi diciamo che se appunto fosse una relazione paritaria quella tra noi e le altre, le chiamo altre proprio per questo, allora dovrebbe essere reciproca e paritaria anche lo scambio di lotte, no? Cioè, per cui non si è mai sentito che le donne occidentali chiamassero le donne di altri paesi per contribuire a quelle che sono le nostre schiavitù, alla lotta su quelle che sono le nostre schiavitù. Questo magari potrebbe essere una reciprocità, una solidarietà internazionale che invece non abbiamo mai sperimentato. Sì, sì, in realtà è una finta sorellanza, perché di fatto, come dire, anche le grandi campagne cosiddette umanitarie di solidarietà internazionale, come anche la cooperazione internazionale come grande espressione poi di neocolonialismo, anche culturale, non solo economico, di fatto segue gli stessi percorsi in realtà del capitale, quindi del potere fondamentalmente, per cui è sempre il nord che deve trasferire qualcosa al sud del mondo, non c'è mai una dimensione di reciprocità e di mutua riconoscenza. E anche se dovessimo parlare di simbolico, penso che noi donne occidentali, per quanto riguarda l'aspetto simbolico e anche legata all'oppressione, legata al fatto insomma di essere donne, abbiamo moltissimo da imparare, o anche in termini di rappresentanza politica ad esempio, o di partecipazione dal basso. Moltissime sono le donne che potrebbero insegnarci o raccontarci o condividere con noi più di qualcosa, ma di fatto siamo sempre noi che ci arroghiamo con questo privilegio e questo diritto, togliendo a loro per l'ennesima volta quella soggettività che diciamo che in realtà gli è stata più volte tolta nella storia, e noi, come dire, proponendoci invece come dei salvatrici, non stiamo facendo altro che ripercorrere strade già battute prima dal patriarcato e poi dall'imperialismo, con la differenza che in questo caso siamo delle false amiche e non delle nemiche a viso aperto. Noi abbiamo pochissimi minuti, però mi dovete perdonare, nel senso che proprio perché questo libro poi alla fine parla di tante altre cose, no? E non solo dell'MGF, ma parla anche di come noi abbiamo anche annientato l'immaginario e la rappresentazione delle donne altre. Tu ad un certo punto fai una sorta di excursus storico parlando della Venere 88 che, diciamo che da questi microfoni a volte se ne è parlato, però diciamo che è una figura che non non conosce quasi nessuno, quasi sì, nessuna. In realtà non è stato un caso isolato, ce ne furono diversi di casi, forse la Venere, la cosiddetta Venere 88, che in realtà aveva un nome. Sarah Bartman. Esatto. E di fatto è stato solamente uno dei tanti casi di erotizzazione e di riduzione all'esotismo delle donne provenienti da altri paesi. La Venere 88. Che cosa le è successo? Lei fu prelevata a forza da un trafficante di d'avorio in Sudafrica e portata in Europa nei cosiddetti zoo umani, in cui venivano esibite non solo oggetti particolarmente esotici, ma anche persone appunto relegate alla dimensione di oggetto, e venivano portate nei cosiddetti fenomeni da baraccone ad esibire la loro alterità. Sarah Bartman era particolarmente una preda particolarmente interessante per questo tipo di dinamiche, perché tra l'altro voglio dire che la terminologia Venere 88 è già di per sé fortemente significativa, perché appunto Venere ci restituisce l'immagine fortemente erotizzata della donna nera, che in quanto tale è una donna ferina dalla sessualità sfrenata e ridotta a mera bestialità, esatto, animalesca e quant'altro, e dall'altra le aveva degli organi genitali particolarmente pronunciati, e questa cosa le fece suo malgrado meritare il termine di Venere, mentre 88 fa parte in realtà della nomenclatura coloniale che inventò nomi, identità di soggetti colonizzati, e gli 88 non fecero eccezione in questo. In realtà non esisteva nessuna popolazione che si chiamava 88, ma 88 viene dall'olandese, da una parola olandese che ricorda molto il balbettio, esattamente come i greci chiamavano barbari dal balbettio barbar, semplicemente perché non capivano quello che dicevano. E 88 altre volte compare come boscimano, subisce lo stesso iter fondamentalmente, laddove boscimano neanche esiste, ma sono bushmen, ovvero uomini della boscaglia, per cui è un altro caso di identità inventata. E questa mia. Diciamo questi episodi, a parte che insomma fino al XIX secolo, se non sbaglio, si sono verificati, e poi quello che è sconvolgente, no, è che le persone pagavano un surplus rispetto al biglietto per toccarla, per palpeggiarla, e naturalmente ha fatto una fine atroce. Sì, lei ovviamente dopo essere passata da baraccone in baraccone, da padrone a padrone, poi lei alla fine è morta giovanissima in un mesocomio, in completa solitudine, perché ovviamente da seguito di numerose umiliazioni sia psicologiche che fisiche, ovviamente ha fatto una fine atroce, come toccò peraltro a tante. In quell'epoca, peraltro, il suo corpo è stato esibito fino agli anni 80 al Museo dell'Uomo, ironia della sorte, di Parigi, imbalsamato, anche se fu prima sezionata e poi messa nella formalina per essere meglio conservata, quindi anche da morta è stata continuata ad essere considerata e trattata come un oggetto o un animale, insomma, sicuramente non con i tratti di essere umano, insomma. E solamente negli anni 80 il Museo dell'Uomo, peraltro, di Parigi l'ha rimosso restituendo i suoi resti al Sudafrica solamente nel 2000. Non fu un caso isolato, anche a Barcellona veniva conservato in un museo cosiddetto etnografico il negro, cioè un corpo di un pigmeo, altro caso di nomenclatura coloniale completamente inventata ex novo, e di un guerriero africano completamente imbalsamato esibito nelle teche dei musei. E lo diciamo che lei è stata, che Sarah Bartman è stata rimossa, diciamo che il corpo di Sarah Bartman è stato rimosso dal museo per la pressione dei movimenti femministi. Sì, altrimenti sarebbe tranquillamente potuto ancora là. Lì. Appunto, parliamo degli anni 80 del Novecento e peraltro il Museo dell'Uomo della civilissima Parigi. Facciamo uno stacchetto musicale. Thank you. mentre ascoltavamo la canzone, qui il dibattito è continuato. Federica stava dicendo una cosa molto interessante. Sì, che le MGF possono essere per molti aspetti paragonate alla questione del SADI che sollevava Adriano Sofri proprio in occasione della levata di scudi che ci fu nel 2004 per la proposta di legge di Omar Abdulkadir, in cui citava addirittura il Giro del Mondo in 80 giorni, in cui Philip Fogg salvava, tra virgolette, da bravo inglese occidentale, una povera indiana che stava per sottoporsi al Sadi, quindi sul rogo per seguire il marito morto. Lui in realtà la salvava, sempre tra virgolette, per portarla nella civile Inghilterra. Peraltro ricordiamo che fino a qualche neanche un secolo prima l'Europa conosceva i roghi per l'Inquisizione, ma di fatto ciò non tolse che ci si scandalizzasse per il Sadi indiano. E di fatto, appunto, viene proposto come un colonialismo coloniale quanto basta, perché comunque salvò comunque una donna nera da altri uomini neri per mano di chi? Di un maschio bianco. E quanto in realtà possiamo dire oggi per le MGF, in cui indubbiamente riconosciamo una cornice patriarcale all'interno però della quale le donne comunque riescono ad agire una propria soggettività, che invece viene tolta loro in una cornice imperialista che le rende meramente oggetto. E in realtà nelle MGF questa pratica la continuiamo a rivedere, per cui è così come il soggetto maschio all'interno di una dinamica tra generi, così come l'imperialismo all'interno di una dinamica coloniale, di fatto continua a togliere agency alle donne in quanto tali, lasciandole sempre senza possibilità di parlare e di esprimere in realtà la propria voce. Certo. Bene, allora io invito tutti a leggere il libro di Federica, Modificazioni genitali femminili. Dove possiamo trovarlo? Una domanda difficile. Beh, la libreria Griot, la libreria Anomalia per adesso, prossimamente da Tuba, e poi è disponibile già online. Ricordiamo il titolo: Modificazioni genitali femminili, una questione postcoloniale, il nostro sguardo sulla nostra alterità. Ci rivediamo il 3 maggio? No, il 3, il, ah. 3, il 7 maggio. Il 7 maggio è il primo martedì del mese di maggio. Sì.